Achille è più veloce, giusto, e poi la tartaruga. Ho perso la sua sfida allo spuntare di una ruga. Se il dono di Prometeo porta alla bomba atomica, io in questo santo giorno voglio la mia donna alcolica. Tanto a collocamento c'è una scritta sulla porta, poiché in realtà la vedono ed altri non importa. Come scrisse il nostro caro Somo Grande Dante, lasciato di speranza perché il tratto è mutante. Lasciato di speranza perché il tratto è mutante. C'era la sala d'attesa, sette anime in attesa, sette giovani precari con la vita troppo appresa. Sorpresa, giunge il messaggio inviato poi da un certo capotizio. Dice che arriva prima in una gara a posto fisso. Rischio, una gara smuove tutto e tutto ha finalmente inizio. Fischio, inizio, inizio, fischio, inizio, inizio. Ci siamo, ci ragazzi, siamo. Andiamo, ragazzi, andiamo, dove arriviamo, dove arriviamo, lo sappiamo. Ma continuiamo tra spinte e sgambetti. Non ci fermiamo. Nella corsa dei colori vogliono tutti i culatori. Il burattino ruba cuori, sarà la gioia dei produttori. In questo fascio di particule dentro non radici. Tutti i mezzi sono necessari per divorare gli avversari. Come disse Machiavelli, se volete farvi a pezzi, il più astuto dei tranelli è giustificare i mezzi. Come il solito politico che parla sempre al plurale ed è amico degli onesti finché arriva al Quirinale. Ha ragione Rino Gaetano che canta con il cuore in mano. Sono tutti incendiari e fieri, ma quando arrivano son pompe e pompieri. Ci siamo, ci ragazzi, siamo. Andiamo, ragazzi, dove andiamo, arriviamo, dove arriviamo, lo sappiamo. Ma continuiamo tra spinte e sgambetti. Non ci fermiamo, non ci fermiamo. E ci azzeriamo, e ci azzeriamo. Se volete che e ce la tiriamo anche mano. C'era la sala d'attesa, sette anime in attesa, sette giovani precari con la vita troppo appresa. Sorpresa, giunge il messaggio inviato poi da un certo capotizio. Dice che arriva prima in una gara a posto fisso. Rischio, una gara smuove tutto e tutto ha finalmente inizio. Fischio, inizio, inizio, fischio, inizio, inizio. Ci siamo, ci ragazzi, siamo. Andiamo, ragazzi, dove andiamo, arriviamo, dove arriviamo, lo sappiamo.